Buona serata, buon venerdì a tutti voi. Marco Gravelli su Rock FM, nello spazio di Arden Devi, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Questa sera si articola in questo modo il nostro appuntamento. Prima parte con Samson dal vivo, e per chi non conosce Samson spiegheremo chi sono. Seconda parte, intervista con gli Helloween in occasione dell'uscita del loro nuovo album. Come sempre il nostro ringraziamento, il mio personale ringraziamento a Simone, che ha preparato sia le domande per gli Helloween sia per quanto riguarda la storia dei Samson. Samson dal vivo si intitola Live at Reading 81. Non è l'unico album live pubblicato, la band non è più in attività, diciamo, e almeno si è poi riformata, lo sentirete appunto nell'esposizione della loro storia. Questo album è stato registrato, come dice il titolo, al Festival di Reading in Inghilterra nel 1981, era una manifestazione molto importante negli anni 80. Venne pubblicato però soltanto 9 anni dopo, 1990. A questo festival, la curiosità, erano presenti Steve Harris degli Iron e il produttore Rod Smallwood, sempre degli Iron, perché stavano cercando un sostituto di Paul Di'Anno, che se n'era appena andato. Furono ben impressionati dal cantante dei Samson, che è Bruce Dickinson, o era meglio dire, e subito gli proposero di entrare a far parte degli Iron Maiden, band della quale lo stesso Dickinson era fan. E da lì poi è nata la collaborazione che sta continuando tutt'oggi. Il live in questione si compone di 10 brani sul vinile. È stato ristampato poi in CD con 3 bonus track. Io ho a disposizione il vinile, tra parentesi è la prima volta che lo suono, ancora vergine immacolato. La lineup è composta del già citato Bruce Dickinson alla voce, Paul Samson alla chitarra, Chris Aylmer al basso e Mel Gaynor alla batteria, celebre per la sua militanza nei Simple Minds, oltre che per aver suonato con Elton John, Tina Turner, ed è entrato nei Samson per sostituire dal vivo il dimissionario primo batterista Thunderstick. Il primo pezzo che andiamo a prendere in esame, quindi faremo facciata per facciata, la side A, non è la prima canzone ma la seconda, si intitola Take It Like a Man, Samson dal vivo con la riconoscibile voce di Bruce Dickinson. We'll be right back. Take It Like a Man, la voce appunto quella di Bruce Dickinson, riconoscibile. Ricordiamo e segnaliamo ancora il fatto che grazie a questa esibizione lui è entrato a far parte degli Iron Maiden, perché Steve Harris e il produttore Rod Smallwood erano presenti a questo festival. Reading 1981. Da segnalare che un'altra particolarità di questo album: non era nato per essere pubblicato, non per niente abbiamo detto che è stato stampato 9 anni dopo per una piccola etichetta, la Raw Fruit Records, ma era nato per essere far parte alcune tracce di questo show del programma radiofonico inglese della BBC Radio 1, programma famosissimo, The Friday Rock Show, condotto da Tony Wilson, famoso appunto DJ metal o hard rock man, eccetera eccetera. E poi è diventato appunto un vero e proprio album, forse vuoi anche per il fatto che Bruce Dickinson era già presente negli Iron Maiden, loro erano famosi, mettete insomma tutto quello che volete. Ricordiamo che la band nasce nel 1977 grazie al chitarrista Paul Sampson, che dà il nome al gruppo stesso. Nella prima lineup non c'era Bruce Dickinson, c'era da segnalare che però vi era un altro personaggio che è entrato poi negli Iron Maiden, cioè il batterista Cliff Burr, che nel 79 lascerà i Sampson proprio per entrare negli Iron. Al suo posto nei Sampson subentra Barry Graham, soprannominato Thunderstick, che aveva militato per un breve periodo lui stesso negli Iron Maiden, cose strane, e che di solito suonava dal vivo con una maschera sadomaso. Con una formazione composta da 3 elementi, con Paul Sampson alla voce e chitarra, registrano 2 singoli e finalmente arriva nel 79 l'album d'esordio autoprodotto intitolato Survivors, poi verrà ristampato anche in CD, lo dovreste trovare facilmente. Il brano, il primo motivo che vi ho proposto, Take It Like a Man, la versione in studio si trova nell'album Hold On. Ora andiamo all'album Shop Tactics in studio, perché andiamo a proporvi Air Mother, che non è un pezzo dei Sampson, è una canzone firmata da Russ Ballard e appunto si intitola Air Mother, secondo brano che ascoltiamo dal Live at Reading 81 per la formazione dei Sampson. We'll be right back. sonata è composta da Russ Ballard, questa Her Mother, per la formazione dei Samson dal vivo. E ancora una volta sottolineiamo la buona, ottima prestazione. Era in forma Bruce, una volta si faceva chiamare così, cioè Bruce Dickinson. Grazie a questa prestazione entrò, lo ripeto e sottolineo, negli Iron Maiden. E da segnalare che quest'album, così stampato, non aveva sovraincisioni e remixaggi. Questo era quello che hanno proposto suonato sul palco, con pregi e difetti. Abbiamo detto che all'inizio Bruce Dickinson non era il primo vocalist dei Samson, ma venne notato proprio dalla band quando si esibiva in un piccolo locale. Sono stati colpiti dalla sua presenza, carisma sul palco, gli propongono di entrare in formazione. Così lui partecipa anche alla stesura dei brani del secondo album del 1980, forse il più bello della band, Head On. L'album arriva numero 34 nelle charts inglesi. Curiosità riguardo a quest'album: vi è una traccia strumentale che si intitola Thunderburst, che è molto simile al famoso intro dell'album Killers, cioè le Idi di Marzo degli Iron Maiden. Questo perché, come vi dicevo, il batterista Thunderstick, grande amico di Steve Harris, aveva militato all'inizio, quando gli Iron non avevano ancora inciso nulla, e quindi questo pezzo alla fin fine è stato utilizzato sia da loro, l'avevano scritto insieme Steve Harris e Thunderstick, sia dei Samson, quindi, sia degli Iron Maiden. Andiamo a proporre e a girare facciata, andiamo nella side B di questo album, che presenta, lo ripeto ancora una volta, nella stampa in vinile 10 brani, 5 per facciata, 5 sulla prima, 5 sulla seconda. Se trovate invece il CD, vi sono altri 3 motivi, 3 brani in più. La side B viene aperta dal brano che vado a proporvi, che poi si trova la versione in studio nell'album Shot Tactics, si intitola Bright Lights. Highlights, versione in studio che trovate poi nell'album Shock Tactics, che è proprio il terzo lavoro, esce nel 1981, e come vi dicevo all'inizio, durante il tour di supporto dove è stato registrato questo live album in quel di Reading, il batterista Thunderstick lascia la band. Al suo posto entra Mel Gaynor, che, sottolineo, ha poi lavorato con Simple Minds, Elton John, Tina Turner. Finito il tour, viene reclutato il nuovo batterista, cioè Pete Yap. Ma soprattutto c'è da segnalare che in quel momento, come vi dicevo, Bruce Dickinson lascia anche lui la band per entrare ufficialmente negli Iron Maiden. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, si intitola Riding with the Angels, forse uno dei pezzi più famosi dei Samson, proposto in questa versione live, sempre però nella versione in studio la trovate originariamente sul lavoro Shock Tactics. Sono i Samson, queste sono le note di Riding with the Angels. We'll be right back. Riding with the Angels, Bruce Dickinson, Paul Sampson, Chris Amer, Mel Gaynor, i Sampson dal vivo al Festival di Reading dell'81. Se ne va quindi Bruce Dickinson al termine di questo tour. Il nuovo cantante si chiama Nicky Moore, con il quale registrano il quarto album Before the Storm dell'82. Seguiranno altri due vocalist e diversi saranno anche i cambi di line-up. Parallelamente la loro notorietà andrà velocemente a scendere. La band si scioglie in un primo tempo nell'84, si riforma 3 anni dopo, cessa di esistere nel 2002, con purtroppo la scomparsa del fondatore Paul Sampson, avvenuta il 9 di agosto, e da segnalare che il 7 gennaio di quest'anno anche l'ex storico bassista Chris Amer è deceduto. Con questo terminiamo praticamente la storia dei Sampson. Tra poco intervista con gli Helloween, ma il tempo di ascoltare un altro brano, la cui versione in studio si trova nell'album Head On, si intitola Hammerhead Sampson. Prima parte di Hard and Heavy, dedicata ai grandissimi Journey, una delle migliori band di AOR. Seconda parte a una band decisamente heavy metal, anzi loro sono stati importanti in Inghilterra nel periodo della New Wave of British Heavy Metal. Hanno pubblicato durante la loro carriera alcuni album live, ma quello più importante è sicuramente questo, doppio album dal vivo. gruppo che si chiama Raven, venuto anche in Italia più di una volta a suonare in quel periodo. Il live album è un doppio vinile, Live at the Inferno. Questo è il titolo del lavoro, uscito nel 1984. 19 tracce registrate durante il tour di supporto al loro terzo album, All for One. Il titolo deriva dalla traccia Live at the Inferno, già presente nel loro secondo album, Whipped Out. La formazione è composta da John Gallagher, voce basso, suo fratello Mark alla chitarra, Rob Hunter alla batteria, che era solito esibirsi con il casco da hockey e che lascerà il gruppo dopo l'album Life's a Beach del 1987, lavoro che li portò a suonare di spalla a Wasp e Slayer. La band arriva dalla città di Newcastle, composta da tre elementi in origine, e aveva come punto di forza i loro concerti, dove si esibivano con divise e altri attrezzi di sport diversi, tanto che definivano il loro sound come athletic rock e devono la loro fama ai primi ottimi tre album che qualche anno fa sono anche stati ristampati in CD. Primo brano che andiamo ad ascoltare. La versione in studio si trova in Whipped Out. Si intitola Faster Than the Speed of Light, un pezzo forte della loro carriera. La formazione è quella dei Raven. Faster than the speed of light. Questo è il titolo del brano, la prima canzone che abbiamo ascoltato da Live at the Inferno per la formazione appunto inglese dei Raven, formazione che abbiamo detto nasce in quel di Newcastle nel 1974. A crearla furono i due fratelli Gallagher, voce basso e chitarra. Con l'ingresso del batterista Rob Hunter nel 1979 la lineup diventa stabile. Registrano così un demo di due tracce che gli vale un contratto con la Neat Records, che ne pubblica l'album d'esordio Rock Until You Drop. Siamo nel 1981, durante il periodo della New Wave of British Heavy Metal. Questo lavoro ebbe da subito un buon successo per il genere, tanto da entrare addirittura nelle charts di vendita in Inghilterra. Andiamo ad ascoltare invece Wipeout, altro brano che dà il titolo al loro secondo lavoro, uscito nel 1982, dove il sound diventa più veloce e gli permette di andare in tour con i Riot e gli Anvil. Raven da Live at the Inferno, ripeto, questo è un doppio vinile, penso poi sia stato ripubblicato anche in CD. album che arriveremo nella esposizione appunto della loro storia, viene pubblicato per un'etichetta americana. Ma siamo all'uscita di questo Wipeout, di cui abbiamo ascoltato anche il brano. Questo album e i loro concerti colsero l'attenzione proprio di questa etichetta americana, la Megaforce Record, che li mise sotto contratto e pubblicò con loro il terzo album, All for One, prodotto niente poco di meno che dal bravissimo, famoso Michael Wagner, ed ebbe un ottimo successo. Questo gli vale un tour in America come supporto ai Metallica e agli Anthrax. Ed è grazie a questo tour che si fanno notare, praticamente una vetrina per i Raven, e riescono ad ottenere un contratto con una major, cioè la Atlantic Records. Con questo contratto la band cambia anche residenza, lascia l'Inghilterra, lascia Newcastle, si trasferisce in America, esattamente a New York, e tutto questo però purtroppo, lasciatecelo dire, segnerà anche il declino della formazione, nonostante poi pubblichino tanti tanti album. Andiamo ad ascoltarci un altro estratto, naturalmente, da questo Live at the Inferno 1984, il brano si intitola Take Control, la cui versione in studio si trova nell'album All for One. Wow. Control, il titolo del brano dall'album in studio All For One, qui nella versione di Live and Inferno, un doppio album dal vivo uscito per etichetta Megaforce Record proprio dopo il tour di supporto al questo album All For One, abbiamo detto prodotto da Michael Wagner. Ottengono il contratto con l'Atlantic, pubblicano 3 album ed un EP, ma le cose non andarono bene. Infatti, oltre alle vendite ben al di sotto delle aspettative, anche i fans cominciano a voltare loro le spalle, semplicemente un sound più leggero o cosiddetto commerciale, come spesso accade, forse dettato dalle richieste dell'etichetta stessa. Arrivano così al 1988 quando abbandonano l'Atlantic Records, pubblicano per un'altra etichetta minore l'album Nothing Exceed Like Excess, nel quale c'è da segnalare anche l'unica variazione in lineup con l'ingresso di un nuovo batterista, ossia Joe Hasselvander, proveniente dagli americani Pentagram, che ancora oggi è in formazione. In contemporanea cambiano anche il look a favore di uno decisamente tipicamente più heavy metal. Il pezzo che vado a proporvi ora si intitola Don't Need Your Money, che fu il primo singolo della band che spinse l'album d'esordio Rock Until You Drop nelle classifiche di vendita inglesi. Media Money, Raven dal vivo, da Live at the Inferno. Siamo nelle ultime note battute della loro storia. Da segnalare che dopo il cambio di etichetta, dopo la pubblicazione di Nothing Exceed Like Excess, seguono altri album e relativi tour di spalla a band decisamente metal come Creator, Running Wild, Udo, Hammerfall, però non riescono più a ritornare al successo che hanno avuto all'inizio della loro carriera. Negativamente importante è il 2001, quando un muro crollò purtroppo sul chitarrista Mark, rompendogli le gambe. La band si sciolse per 2 anni per far sì che Mark si riabilitasse completamente. La reunion si realizza nel 2003 con un tour di spalla ai Seven Witches. Attualmente la band, in ogni modo, gode un buon seguito soprattutto in Giappone. Attualmente stanno registrando le nuove tracce che andranno a comporre il prossimo album. Andiamo ad ascoltarli, a proporli con l'ultima traccia di questo Live ed Inferno, ripeto, doppio album per la Megaforce Records, uscito nel 1984 con ben 19 tracce registrate durante il tour di supporto al terzo lavoro All for One. Il pezzo che vi propongo è un medley di due brani, si intitola Tyrant of the Airways, Run Silent, Run Deep. La formazione appunto è quella dei Raven, band inglese di Newcastle, magari se qualcuno di voi non la conosce, era tra le migliori top 5 band della New Wave of British Heavy Metal e all'epoca diverse volte vennero, almeno un paio di volte io li ho visti direttamente qui a Milano in club come il Rainbow, forse si chiamava in un altro modo, e il Rolling Stone. Raven con l'ultimo brano. Io a questo punto ringrazio il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, Simone, autore di tutti i testi. Vi auguro uno stupendo weekend, ci ritroveremo con Hard and Heavy il prossimo lunedì con tante novità e tante belle canzoni legate sempre al mondo dell'hard e dell'heavy metal del passato. Un grazie a tutti voi, come già detto un buon weekend da Marco Gravelli, è tutto, ciao ciao. We'll be right back.